così di brutto, cioè così di brutto, esattamente, in realtà senza neanche sì, perché senza neanche passare dal via, sì. Senza neanche... Perché sai che Coxo Spaziale è una trasmissione brutale, no? Sai perché? Sai che non ti sento da quel microfono? Forse è spento. Ah, può essere. Prova, fai tic-tac, vedi, guarda se c'è un modo di accenderlo. No. No, quello non è un pulsante. Prova a fargli a sbatterci sopra. No? No, no, è proprio spento. Ma non c'è un pulsantino qua. Ah, sì, no, ho capito, aspetta. Ritenta. Ecco, adesso perfetto. Ci siamo. Adesso ti abbiamo, scusate. La tecnicalità della, le cose della serata, ma che ho detto siamo sempre... non si potranno mai più ripetere. Esatto, mai più ripetere. Mai più ripetere. Intanto io di sottofondo ho messo il nuovo disco dei Central Unit, intanto, visto che loro non cantano, per cui non ci disturbano. Dicevamo, Fabio Cavallucci, hai curato una mostra che si intitola La realtà e i linguaggi. Ok, alla Galleria Enrico Astuni, che salutiamo. Ciao. Ciao, ciao Enrico. Enrico è in ferie, ma non so se ci ascolterà comunque. E dove appunto metti in discussione l'idea stessa di realtà, giusto? Beh, sai, non è che sono io che metto in discussione l'idea di realtà è in discussione ormai da parecchi secoli, anzi credo che tutta la storia della filosofia dell'uomo stia ad indagare che cos'è la realtà, per arrivare poi al punto in cui ci pensiamo negli ultimi anche risvolti della fisica, si scopre che la realtà non è quella che abbiamo creduto potesse essere. A un certo punto, come dire, con la fisica newtoniana, con la scienza, abbiamo immaginato di avere una discreta conoscenza della realtà, e poi invece non più non da pochi anni, ma ormai quasi da quasi un secolo, dalle leggi dell'indeterminazione, la fisica quantistica, si capisce che la realtà non è quella che si vede, e la realtà è molto più complessa, soprattutto è caotica, casuale. Le nanoparticelle, il bosone di Higgs per esempio, che noi guardiamo, no, non noi, ma al CERN di Ginevra cercano di studiare, e quando lo immaginano qui, è lì, ma è anche di là. A me torna in mente, perché poi gli artisti sono sempre stati anche coloro che con i loro salti hanno dato immagini anche della realtà veramente talvolta più coincidenti al vero che non la scienza stessa. Mi torna in mente Mattia Moreni, visto che si parla di arte, che è stato un po' un mio maestro, un artista informale. Un grandissimo. Che diceva: la realtà, stanca di farsi chiamare realtà, si fa chiamare tra la la la, tra lì e là. E diceva esattamente quello che accade, si scopre nella fisica quantistica. Il bosone, il quanto, è sia qui che là, e quindi non c'è più la certezza di una posizione, la certezza di leggi come causa-effetto. Per cui della realtà che conosciamo, quella che vediamo, cadono le basi. E questo per quanto riguarda la realtà. Poi la mostra, se vogliamo tornare alla mostra, in realtà si chiama La realtà, i linguaggi, perché dice: vabbè, la realtà non la conosciamo, ma insomma facciamo finta di conoscerla. In fondo, tra uomini, nell'umanità, abbiamo sempre in qualche modo tenuto conto, abbiamo questo consenso, no? Quello che vediamo, quello che ci sembra più o meno essere riconoscibile, lo consideriamo la realtà. Poi ogni tanto scopriamo che non è proprio così, ci sono delle fratture, ci sono dei varchi, perché non siamo tutti d'accordo, per esempio, che il mondo sia sferico. Poi scopriamo che ci sono i terrapiattisti, e queste sono le lacune, quei vuoti, no, di consenso, per cui troviamo che ci sono delle comunità che pensano in modo completamente diverso. Ma diciamo, in percentuale l'umanità ritiene reale ciò che più o meno tutti considerano nello stesso modo. Ma poi arriva un altro aspetto, che è quello del linguaggio, e lì credo siamo tutti d'accordo nel pensare, nel sapere che il linguaggio non soltanto descrive la realtà, ma in qualche modo la interpreta, la costruisce. E quindi è molto importante il linguaggio che usiamo, e non mi riferisco solo al linguaggio parlato, ma anche al linguaggio visivo, stiamo parlando di una mostra, definisce il nostro modo di intendere la realtà, cioè definisce la realtà stessa. Fantastico, io ho appena finito di fare una lezione, beh, la settimana scorsa, proprio su queste cose, sull'orizzonte degli eventi, buchi neri, Siamo assolutamente in media stress, direi. Mi avvicini il microfono perché si continua a non sentire. Sarà reale la mia presenza? Si sente qui? Benissimo. Adesso si sente benissimo. Si sente benissimo. Eri giusto un po' bassa e siccome avevo alzato tutto al massimo, più di così. Non era più possibile. Non era più possibile. Sono un po'. Questo microfono ai miei occhi appare molto reale, okay. Soprattutto molto vicino. Ecco. Comunque, ecco, grazie. Va meglio così. Va meglio okay. Così. Va meglio così. Molto bene. È fantastico, interessantissimo. Naturalmente avrai letto le 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, che sono un primo passo nel un primo passo in queste così per noi non addetti ai lavori, ma Fabio Cavallucci scuote la testa e quindi forse lo cogliamo impreparato. Bene, sei riuscita a prendere in contropiede. Sono riuscita. Bene, allora questo è un regalino di Natale magari, no? Un possibile regalino di Natale. È un libretto che raccomando molto perché è veramente carino e vabbè, poi tra la fisica quantistica e i relativisti c'è una certa discrepanza, già che ci siamo su modelli. No, perché Chiara è laureata in biologia, qua siamo... Ma io sono laureata in tutto. Esatto. Ormai sono laureata in tutto. Stai prendendo la quarta laurea? No, okay. Mi sono fermata. Le ho prese tutte prima. Te ne diamo una... Una gratis. Una ad honorem. Me ne tirate una in testa così. Roberto, a te ad honorem te ne hanno date qualche laurea? Assolutamente no. Ah no? Cavoli, cosa aspettate? rettori all'ascolto. Rettori all'ascolto. Cosa aspettate a dare delle lauree ad honorem a Roberto Grandi? Hai qualcosa da no, sentiti libero di interromperci tutti quando vuoi, tu con... No, prego. Ma io faccio degli intermezzi, sai, questo è un sistema caotico, a proposito del coxo spaziale che stasera si chiama cox reale, è un sistema assolutamente caoticissimo. Tu pensa che io nel venire in qua ero convinta che si parlasse di realtà per via del momento in cui ci troviamo, in cui la realtà ci chiama, come dire, e quindi mi ero preparata a tutte delle domande che sono completamente fuori tema, è bellissimo. No, questo. Magari dopo ne faccio una a Roberto Grandi, così lo costringiamo a parlare e a uscire dal suo misterioso silenzio. Sì, io invece faccio così, guarda. È tutta una vita che passo da qua, e ancora rischio di perdermi. Magari è questione di troppa sensibilità, o sono soltanto motivi tecnici. E tu dici una bussola, dovevi almeno portarla con te. Una bussola, potevi almeno spiegarmelo come si usa una bussola, scusa. Ci sono amori che non si ricordano, e baci che non si dimenticano, persone che passano e non si salutano e sputano, e cani bianchi che a volte ritornano. E tu dici la vita, dovevi almeno capire perché. La vita, il tempo che cambia col vento che arriva, quest'anima stanca che pure respira, quest'angolo piatto che gira, quest'anima dolce e cattiva che dice guardami, guardami, dice perché non parli, dice sbrigati prima che sia troppo tardi, guardami, perché non parli, fermati prima che sia troppo tardi. Thank you. dunque, Fabio, qual è il tuo pensiero rispetto al perché non si parla più di linguaggio? Ma difficile dire, naturalmente, perché accadono dei fenomeni. Tanto bisogna vedere se è vero che non si parla più di linguaggio. Questa è la mia impressione. Mm. Perlomeno nel mondo dell'arte mi sembra che se ne parli molto meno che negli anni 70. Non che io negli anni 70 seguissi, però voglio dire, l'ultimo grande libro in Italia sul linguaggio nell'arte, Filiberto Menna, La linea analitica dell'arte moderna, credo sia rimasto l'ultimo, in qualche modo, negli anni 70. C'è Luca Rossi che parla di linguaggio. Luca Rossi, no, in realtà Luca Rossi parla di relazioni, parla di fenomeni. Diciamo, il tema del linguaggio nell'arte, che è stato il tema fondamentale dalle avanguardie fino a, appunto, agli anni 70, in realtà è un po' sparito. Addirittura Menna, la cosa sorprendente, diceva, quasi condannava tutta l'arte che non parlava di linguaggio. Tutta l'arte in qualche modo non tautologica, dicendo l'unica arte che si può definire, cioè l'arte che non parla di linguaggio, che non tratta il tema del linguaggio, è soltanto contemporanea, utilizzando questo termine contemporaneo in senso diminutivo, mentre l'altra si può dire si può dire effettivamente moderna. Quindi la vera arte moderna, che per lui era più di contemporaneo, è quella che tocca, che tratta, che analizza il linguaggio. E perché oggi questo non accade più? Perché accade meno? Ci possono essere delle ragioni. Diciamo, da un certo punto di vista era anche diventato un'esagerazione, cioè un'arte soltanto tautologica il cui contenuto finisce per essere se stessa, chiaramente diventa, non dico inutile, ma diventa appunto tautologica. Un pelino autoreferenziale. Credo che un'altra ragione sia che noi siamo diventati una società molto più produttiva, quindi pensiamo meno e cerchiamo di produrre. E alla fine non conta il linguaggio che si usa, conta la produzione, conta semmai la quantità. Ecco, tutto diventa, è molto più quantità. Il linguaggio, inteso come linguaggio parlato, come parola, ma anche come linguaggio estetico, è meno legato a una definizione quantitativa. Poi c'è anche un linguaggio matematico, per carità, però quindi questa potrebbe essere la ragione, ma onestamente non saprei dare una risposta. Io volevo azzardare un'ipotesi, che essendo sparito il linguaggio non sappiamo più come parlare, cioè proprio ci manca tautologico, ci manca, anche questo è tautologico questo. Ma invece guarda, io devo dire, nella mia mini esperienza di quest'anno in accademia, trovo che i giovani abbiano il desiderio invece del linguaggio, magari non lo gestiscono proprio, come dire, sempre con coscienza, però secondo me il desiderio c'è e quindi forse abbiamo delle cose da dire latenti che devono trovare una propria forma, non lo so. Io voglio sempre essere ottimista. Roberto Grandi. No, rispetto a quello che si è detto, sì, interessante il rapporto tra realtà, rappresentazione e la mediazione che il linguaggio sostanzialmente dà di tutto questo. Ecco, io, andando poi dal punto di vista più sociologico, che era quello che, sociologia della cultura, che avevo frequentato, la realtà è una costruzione sociale, cioè la realtà con la R maiuscola non esiste, è una costruzione sociale a cui partecipano tanti soggetti, tante istituzioni, e quindi si parte, per quanto riguarda l'individuo, si parte dalla percezione che noi abbiamo della realtà. Attraverso il linguaggio interpretiamo quella percezione e ne diamo una rappresentazione. Ecco, questo avviene da parte di tante istituzioni, sulla quotidianità, le più banali sono proprio le istituzioni politiche, le istituzioni sociali, eccetera. Ognuno racconta la sua realtà. E dato però fondamentale, che era quello che si diceva un po' prima, mi sembra, è che alla fine è una costruzione sociale a cui partecipano in tanti, partendo da elementi soggettivi, che diventa però oggettiva. E quindi per noi è oggettiva la realtà costruita invece socialmente, e quindi le norme e quindi le narrazioni che vengono date sono la realtà con la R maiuscola. Quindi si parte da una realtà con la R maiuscola che non esiste, ma che viene però oggettivizzata da noi come se fosse tale, proprio perché è intersoggettiva, perché concordiamo tutti sul fatto che sia quella e non un'altra, e quindi rimaniamo prigionieri un po' di tutto questo. Quello che si diceva per il linguaggio artistico, il linguaggio artistico e gli artisti, anche loro danno luogo a questa, partendo dalla percezione, a una rappresentazione, e hanno definito delle grandi rotture, perché loro si possono permettere, rispetto ad altre istituzioni sociali che partecipano a questa costruzione sociale ma hanno delle rigidità, l'artista si può permettere invece di ridefinire un linguaggio, ridefinire dei codici attraverso i quali rappresentare, nel senso che parti da una percezione che è assolutamente diversa, codici nuovi, e restituisci tutto questo. Ecco, e questo sarebbe importante, e questo è importante, proprio perché se noi ci pensiamo poi alla realtà, la realtà è più determinata dalle grandi narrazioni fatte dagli artisti. Cioè l'Odissea e l'Iliade ci hanno dato quella che è la realtà di quel tempo, così come le statue che venivano realizzate, rispetto a tanto altro, e con delle modifiche di paradigmi. Ecco, quindi gli artisti, diciamo i creativi, hanno una grande responsabilità di innovare per quanto possibile, ecco, questi linguaggi con cui interpretare la realtà, sapendo che hanno la massima libertà rispetto invece ad altre istituzioni che vogliono imporre il proprio punto di vista. Ecco, allora all'arte si domanda questo: se l'arte non fa questo, perde un po' quella che potrebbe essere la sua vocazione e il suo ruolo, perché a questo punto sono già altre istituzioni che in qualche maniera ti raccontano ciò su cui siamo tutti d'accordo e che crediamo che sia il dato per scontato. Ecco, quindi quello che si diceva di alcune rotture, di alcuni paradigmi che l'arte si può permettere di attraverso codici con cui interpretare la realtà, sarebbe estremamente importante, perché è produttivo di nuovi punti di vista sulla realtà. Nuovi punti di vista ti dicono semplicemente che ciò che pensavi fosse oggettivo non lo è, ed è fondamentale, perché se no noi viviamo nella convinzione che esiste una realtà oggettiva che invece è stata costruita, e quindi chi si pone con un linguaggio diverso riesce in qualche maniera a demistificare tutto questo, ed è una funzione che gli intellettuali, gli artisti, i creativi hanno avuto nel corso della storia, e ha inciso molto. Sui 333 180 94 94 potete lasciarci dei messaggi se volete interagire con Roberto, Fabio e Chiara su questo argomento. La settimana scorsa avevo le filosofe, sono arrivate un paio di domande fantastiche. Ah sì, sì, mi hanno lasciato spiazzato. No, sì, una l'ho sentita effettivamente. Di solito il telefono tace, ma le filosofe. Le filosofe la sanno lunga. ok, cosa dici, Fabio? Concordiamo perfettamente. Diciamo, magari non c'è. Allora, questa mostra con una serie di artisti, magari citiamoli anche, giusto perché lasciamoli in un ente famoso. No, infatti te lo volevo dire, ma la pubblicità della mostra, ahimè, la devi fare tu. per cui va bene, volentieri. Maurizio Cattelan, Maurizio Mochetti, Maurizio Nannucci, Giulio Paolini, Thomas Saraseno. Fossero tutti Maurizio. Tutti Maurizio, sarebbe stata un'altra mostra. Netko Solakov, Agnieszka Polk e Rafael Rosendahl. E sono artisti molto diversi gli uni dagli altri, anzi appositamente scelti in modo estremamente diverso, perché ciascuno di loro porta avanti un'idea molto diversa di linguaggio. Da, che so, Thomas Saraseno, che parte da un linguaggio in cui cerca di costruire una tecnologia vicina agli elementi basilari della natura, no? Le tele di ragno, le immagini, non so, i colori dell'arcobaleno, quasi pensando, immaginando, forse anche un po' ingenuamente, che si possa con una tecnologia che abbandona la durezza e le problematiche degli idrocarburi e dei sistemi industriali, si possa quasi tornare alla natura e salvare il mondo, insomma, no? Quindi il suo è un linguaggio quasi letterale, in qualche modo, proprio prendendo gli strumenti basilari, così come Mochetti, che utilizza il linguaggio della fisica, o perlomeno dà un occhio al linguaggio della fisica, si riferisce al linguaggio della fisica. Poi c'è per esempio Nannucci, che invece utilizza il linguaggio più comune, la parola, però lo mette in crisi, rivela che questo linguaggio, per esempio il lavoro che è esposto in mostra, che è realizzato appositamente, è un lavoro da questo punto di vista estremamente interessante e significativo, perché sono due frasi che si incrociano, si alterna lettera per lettera con due colori diversi, uno rosso e uno blu. Se si segue, diciamo, la serie rossa si legge una frase, se si segue la serie blu si legge un'altra frase, e le due frasi sono more than real and this is not here. Quindi, come dire, da una parte il linguaggio è più reale del reale, perché l'unica realtà che abbiamo è il linguaggio, ma allo stesso tempo, al momento in cui lo esponiamo, non c'è la realtà, e non è lì, è da un'altra parte, se c'è. Io invece ho ricevuto un messaggio che dice: ottieni un secondo stipendio, investi 250 euro ora in azioni Amazon, per te un guadagno di oltre 1500 euro ogni mese. Per info rispondi ok. Sono un po' tentato. Cosa facciamo? Proviamo. Creiamo un account di Radio Città Fujiko per vedere se funziona o se dopo viene inserito in un sistema pubblico. In realtà quello che facciamo è molto meno interessante, che è quello di mandare le pubblicità, pubblicità delle 19:30. Tirano un po' da quella stessa parte, sì, secondo me, linguisticamente parlando. Sì, però sono molto più simpatiche le nostre pubblicità. Certo, c'è più impegno. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Giovedì 23 dicembre, bo.it. Eccoci ritornati qua in studio con Fabio Cavallucci e Roberto Grandi a parlare di realtà. Io ho una domanda da $1,000,000. Fabio, come possiamo migliorare la realtà? Infatti io pensavo questa che non sarebbe... era una domanda per Roberto Grandi. Infatti sì, questa poteva essere, introduce un po' la sfilza di domande che in qualche modo c'eravamo preparati. Beh, intanto bisogna capire quale realtà. È vero, in effetti ci sono tante realtà. Diciamo migliorare la realtà artistica, dai, restringiamo un po' il campo così sui nostri... L'ho ristretto troppo? In realtà la risposta è semplice: per migliorare la realtà artistica basta aumentare i fondi agli artisti, no? Cioè, di base... Questa è la tua risposta, adesso sentiamo quella di Fabio Cavallucci. Cioè, tu vorresti dire aumentiamo i miei... anzi parlo proprio in generale, assolutamente. Io non sono molto bravo per nulla nel trovare fondi, eccetera. E mentre invece, per quel che riguarda l'arte, penso che sarebbe importante molta più informazione su quello che riguarda il mondo dell'arte. Sì, ma è tutto legato, cioè anche la storia dei fondi non è sbagliata, nel senso che pensate alla pandemia, no? Quando adesso è arrivata una pandemia tutti dicono: ah, ma siamo stati stupidi, non ci avevamo pensato, dovevamo saperlo, anzi si sapeva, non abbiamo fatto investire benissimo, è vero. Tra un po' la prossima pandemia sarà culturale. Cioè è già, in realtà non c'è bisogno di aspettare, sì, in effetti. Cioè, non ci stiamo guardando, cioè ci troveremo in un mondo in cui non sapremo più che cosa facciamo, chi siamo, in quale direzione andare, perché non avremo più quei riferimenti, quegli elementi a cui faceva riferimento appunto Roberto, no? Parlando di costruzione sociale della realtà, che di solito viene data da chi per professione, per esperienza, per passione si dedica a questo. con un graduale, lento consenso che magari arriva anche nel corso di decenni, di secoli, ma che finisce per creare una dimensione comune, appunto, nella quale ci troviamo. Ora questa potenzialità, diciamo, è ridotta perché manca anche la volontà, certo, manca una volontà sociale prima di tutto, però insomma chi si trova in certe posizioni politiche a volte può spingere in una certa direzione e vedere il risultato poi dopo che le cose sono successe, insomma non c'è bisogno sempre di aspettare che dal basso arrivino delle richieste, perché magari quando arrivano dal basso, come nel caso della pandemia, si scopre che è troppo tardi, cioè c'è già un virus che dilaga e tra un po' ci troveremo un virus che ci condanna sul piano culturale, non avremo fatto granché per salvare la nostra civiltà, la nostra cultura, per farla crescere, non tanto per salvare il passato, ma per costruirne anche per costruire anche delle strade nuove. Bisogna ricostituire riferimenti linguistici, questi riferimenti. Ma e invece io pensavo di domandare a Roberto Grandi, a questo proposito, come vedi da questo punto di vista la realtà bolognese, perché in questo avrai maturato una certa esperienza, diciamo, negli ultimi anni. Che cosa possiamo dire? Come vedi il polso della situazione? No, diciamo che metto assieme quello che si diceva prima e questa domanda. Cioè, abbiamo in questi giorni parlato dei 30 anni di Pier Vittorio Tondelli che è morto. Cioè, Pier Vittorio Tondelli, la cosa che sentiva un'urgenza. Ecco, la creatività, o c'è l'urgenza dell'artista, del creativo, o a me lascia abbastanza indifferente. Ecco, quello che non sempre si sente è un'urgenza da parte di chi ha qualche cosa che dice, e quel qualche cosa che dice è un qualche cosa che è dirompente rispetto a quella che è la realtà. Ha l'urgenza perché non è già detto dagli altri. Ecco, e questo sì, se ci sono dei finanziamenti, se ci sono dei fondi è meglio, ma non sempre questa urgenza ha corrisposto a dei fondi che c'erano. Ecco, proprio perché... Potrei dire quasi mai. Io adesso sì, rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, quando voglio dire... 25 anni fa, quando ero responsabile come assessore alla cultura della convenzione con l'INC, eccetera, cioè difficilmente mi sento dire come oggi la prima cosa è ci sono dei bandi a cui posso... No! Perché se la prima cosa che pensi è se non ci sono i bandi non posso fare nulla, non hai quest'urgenza. Che è la stessa, che è la stessa non urgenza che hanno tantissimi artisti italiani che se non hanno una mostra non producono un lavoro. Ecco, quindi questo è un po', questo è un po' il tema. Perché se hai questa, dopo qualcosa può venire, non può venire, eccetera. Ma invece io vedo proprio i giovani che escono e la cosa che cercano è questa, in funzione di un qualche cosa. E allora lì sì che fai poi difficoltà a individuare nuovi linguaggi, eccetera, perché in qualche maniera cerchi dei bandi e rispondi a quelli che sono dei vincoli che ti vengono dati, e questi vincoli in qualche maniera, ecco, non sono così ovviamente non ti lasciano spaziare più di tanto. Quindi è chiaro che chi prende le decisioni, quindi il processo decisionale, deve essere modificato in funzione di quelli che sono i finanziamenti che vengono dati, ma dall'altra anche il fatto di sentire, ecco, questo bisogno che qualsiasi cosa accade hai qualche cosa da dire. E io adesso leggevo anche questo testo di Laura Caroli, che era una mia ex studentessa laureata sulle nuove tecnologie, che aveva questo gruppo Rough Punk all'inizio degli anni Ottanta a Bologna, e in cui non ti potrei altro problema che eri punk, E quindi vivevi da punk, e il tuo linguaggio era il punk, e non te ne fregava niente di nient'altro. Ecco, questo tipo di urgenza oggi è più sfumata. Proprio perché quando un artista ti trovi all'interno di un sistema in cui ognuno ha un suo ruolo, e quindi voi integrati, poi uno dice uno deve mangiare, non deve morire di fame, certo. E quindi in qualche maniera questo avviene, però questo forse ha di nuovo a che fare col linguaggio, cioè gli artisti adesso si ritrovano nell'impossibilità di costruire un linguaggio nuovo. Almeno a livello fuori un po' questo tema mi viene da ricordare, perché visto che c'è Fabio Cavallucci qui proprio nel forum dell'arte contemporanea del 2018, mi ricordo questa questione che era vissuta un po' anche con insofferenza da parte degli artisti, rispetto a quello che diceva adesso Roberto Grandi, no? Che il bisogno di uscire dal reticolo dei bandi quindi questo è un desiderio che secondo me da parte degli artisti c'è in realtà, cioè l'urgenza in qualche modo lo dico dalla, come dire, forse non sono io quella che può esprimere il punto di vista delle nuovissime generazioni e neanche di quelle forse neanche nuove, cioè né nuovissime né nuove né quasi recenti, però c'è un po' di senso di, come dire, di costrizione, per cui il bando in qualche modo ha uniformato l'esistenza del bando, questa è la percezione, ha uniformato il modo, come dire, di presentare la propria ricerca. Questo in qualche senso secondo me un po' è accaduto. Però no, mi è venuto in mente pensando proprio all'essere punk, che adesso non c'è più questa cosa, è impossibile, no? Una nuova anche moda, no? Cioè anche le mode non sono frastagliatissime, non sono più così specifiche come negli anni '80. Io credo che sia proprio questo il nodo, diciamo, anche del linguaggio in qualche modo, cioè non arriva il nuovo linguaggio perché siamo ormai in una società in cui c'è un sistema così pervasivo, tecnologico prima di tutto, ma se vogliamo anche per altri aspetti, politico, cioè si tendono ad attutire tutte le punte, e chiaramente anche l'artista, ammettiamolo, che nasce, che cresce in questa situazione, fa fatica, cioè oggi gli si chiederebbe uno sforzo che non riesce nemmeno a immaginare da solo, no? Un artista, un gruppo, perché ormai la società è diventata una società, un sistema attutito, dove tutto si svolge senza attrito, senza... con poco attrito, con... No, perché questa esigenza, per esempio, penso al Turner Prize, no? Che è stato, in cui quest'anno c'erano solo dei gruppi che facevano attivismo politico, sì, che hanno partecipato, poi uno di questi ha vinto. Io adesso non ho neanche guardato l'opera vincitrice, eccetera. Però questa esigenza mi è sembrata veramente artificiosa. Sì, dopo può diventare anche artificioso andarlo a ricostruire. Però io credo che ci sia una necessità, non dico del singolo artista, ma di ricostruire un sistema complessivo. Cioè quando si parla di soldi, non penso tanto ai soldi da dare ai singoli artisti se gli artisti non hanno quell'urgenza di cui parla Roberto, ma il sistema sì. Cioè il sistema vuol dire anche le istituzioni, il sistema vuol dire le scuole, certo. Perché se non si ricomincia anche dalle accademie, e se non si ricomincia a pensare che ci vuole anche un modo anche come dire potente, nuovo, proprio per far crescere, no? È ovvio che ci troveremo tra 20 anni che non solo non abbiamo più l'artista con l'urgenza, ma non avremo forse più l'artista. Poi per carità, magari l'artista o l'arte non è detto che debba essere nell'eternità dell'uomo, però visto che sono circa 35-36 mila anni che c'è, forse solo o no, di più, non so, se prendi le sculture, le cose dove poni l'inizio, esatto, cioè io sapevo che addirittura ci sono alcune artifatti, Altamira, queste, alcuni artifatti dei cosi dei Neanderthal, dicono 400.000 anni, Sì, certo, per cui insomma, voglio, beh, insomma comunque in, vabbè, insomma, è una faccenda che c'è da un bel po', in, ecco, in effetti comunque l'impeto creativo non credo che finirà neanche quando muore l'arte, perché fra l'altro è uscito oggi mi sa un articolo su di Luca Beatrice che diceva proprio che forse il 2021 è stato l'anno in cui definitivamente l'arte è morta, no? Proprio per, è proprio in base a quale in base a quale, a quale fatto specifico del 2021 ha preso il Covid? No, cioè tra la pandemia, il fatto che tutti si sono messi online perché non si poteva più e poi appunto alla fine cita il Turner Prize che ha bisogno di andare a cercare attivismo politico perché non c'è più arte da fruire, no? Sì, questo poi è un fenomeno che si ogni tanto ricorre, che diciamo il sistema dell'arte va poi alla caccia di qualche cosa da... Certo, perché poi vabbè, naturalmente il mercato ha bisogno di continuare a sfruttare qualcuno o qualcosa, per cui qualcosa di creativo da vendere lo deve avere, però non è quello il problema in realtà è rimane secondo me l'impeto dell'artista che io ritengo che ci siano gli arti, anzi su Instagram lo darei per certo. Diciamo che magari senza tutto quel lavoro che porta alla costruzione dei famosi riferimenti linguistici, tutto questo impeto creativo rischia di essere anche poco incisivo, tutto certo, sommato, no? Cioè è presente quantitativamente, però... Io comunque sono convinto che l'artista oggi debba tornare a parlare con tutti, cosa che invece non sta facendo. Cioè tantissimi artisti non fanno e non sono interessati a farlo. E questa cosa secondo me ci penalizza tutti. E su questo quando dici tutti chi intendi? Tutti. Non solo i galleristi e non solo i critici, infatti il mio tavolo al Forum dell'Arte Contemporanea voleva proprio tentare di mettere tutti sulla stessa barca per affrontare la crisi, che è una crisi non solo di mercato ma è una crisi di contenuto, cioè una crisi di pubblico, cioè noi l'arte contemporanea non ha più pubblico. E non è colpa, non è solo colpa degli artisti, non è solo colpa dei galleristi, è colpa un po' di tutti, è per quello che io tentavo di mettere tutti sulla stessa barca ma ho fallito miseramente. Ma molti non hanno voluto salire pensando che la tua barca sarebbe presto naufragata. Diciamo che le mie barche non sono mai particolarmente di successo, però questo è un altro paio di maniche, però rimane, fatto sta che comunque la crisi rimane e in pochi hanno voglia di affrontarla, ma forse è anche oggettivamente difficile. Mi veniva questa domanda sempre per Roberto Grandi, ma è una domanda difficile, mi rendo conto, però se vogliamo partire forse dal lato sbagliato della questione, visto tutto quello che abbiamo detto, però se visto che tu hai agito di più non tanto sul fronte di chi produce come artista ma sul fronte di chi crea le strutture perché poi si possa dare voce ed espressione a chi invece l'arte la fa. Se i bandi non sono questo strumento, diciamo così, un po' castrante sui linguaggi, eccetera, che cos'altro si potrebbe fare? Quali altri strumenti o idee, fatti concreti si potrebbero mettere in campo per tentare di spezzare un po' quello che sembra essere un circolo vizioso? Sì, no, credo che da un lato, per esempio, la risposta che è stata data da Lorenzo Balbi a Mambo durante la pandemia col nuovo Forno del Pane sia stata una risposta interessante, cioè di dare uno spazio a 13 artisti i quali soffrivano della pandemia e quindi creare questa comunità, e per un anno sono rimasti lì dentro. La domanda che io mi pongo da questo punto di vista è perché nel mondo ci sono state decine di migliaia di musei vuoti e non abbiano fatto la stessa cosa, perché sono rimasti chiusi, e rimanere chiusi ha significato che poi aspettavi di avere dei ristorni e quindi in qualche maniera tu lì non avevi spese, non avevi niente, oppure fai come il Metropolitan, come quelli statunitensi. Metropolitan ha licenziato 300 che facevano l'attività educativa e per 2 anni gli ha già detto voi non venite. Ecco, quindi le istituzioni possono fare qualche cosa se si pongono il problema, e questo, ecco, credo che sia la novità, che per esempio per un museo i pubblici di riferimento non sono soltanto i turisti, non sono soltanto i cittadini, non sono soltanto le scuole, ma sono anche gli artisti. Non diamolo per scontato che tutto questo sia vero, perché poi nelle valutazioni, nelle cose che fai, quanti visitatori hai avuto, quante scuole hai avuto, eccetera, ma cosa hai fatto per gli artisti? Bene, quello che ho fatto delle mostre. Ecco, in questo caso ti sei posto un problema ulteriore, e credo per esempio che un problema, ma che molti paesi già lo fanno, sia riuscire a fare un discorso di residenze nelle quali, anche attraverso il bando, perché devi scegliere, anche qua i 13 che sono stati scelti erano quelli più di 100 che si sono presentati. 219. Ecco, nelle scelte che tu fai possono essere delle scelte che tu individui qualcuno che può portare avanti qualche cosa di nuovo, di diverso. Questo sì, questa è una responsabilità. Credo che il curatore di un museo, che dirige un museo, deve fare questo. Ecco, questo assolutamente, assolutamente sì. Ecco, le istituzioni proprio non hanno questa possibilità. Se il curatore vuole, nessuno gli impedisce di fare questo. Io credo che il prossimo passo da parte di tutti, e soprattutto delle istituzioni, sia riuscire a creare delle residenze che siano residenze, però, anche perché oggi noi parliamo di arte, ma è ridicolo. Cioè, è ridicolo, soltanto per il ministero ha senso che ci sia la divisione tra danza, arte, certo, teatro, tutte esatto, ste pippe qua. Questo, perché nessun artista, voglio dire, sì, fa questo. Se uno va a Mambo e si pone il problema quanta cosa di pittura ho visto in questi 5 anni, no, hai visto delle performance che sono molto più simili a quelle che hai visto a teatro piuttosto che ad altre parti. Quindi, ecco, da questo punto di vista, residenze in cui i creativi hanno la possibilità di stare assieme e di influenzare i linguaggi, di creare qualcosa di nuovo, io credo che le amministrazioni e le città abbiano questo come proprio dovere. Tra l'altro abbiamo visto anche Giovanni Truppi che parteciperà a Sanremo ed ha suonato al Mambo con Aldo Giannotti. Esatto. E quindi questo credo che sia importante, e allora lì sì, tu puoi agire e dire voglio prendere quelli che insieme possono pensare a qualche cosa di nuovo, a linguaggi nuovi, puoi deciderlo. Ecco, questo è qualcosa che è possibile farlo. Sì, un cambio di paradigma che penso che sia molto interessante, quello che hai detto sui pubblici di riferimento, no? Che parte un po' dall'accettazione forse di quello che è un dato di fatto, cioè invece di lamentarsi sempre che l'arte non esce dal circuito autoreferenziale, cerchiamo di renderci conto che forse dobbiamo lavorare anche per noi, e che da lì magari invece può nascere una nuova apertura. In un incontro che abbiamo fatto di recente con Lorenzo Balbi sul discorso di avere un sacco di musei vuoti che non hanno seguito la stessa indicazione che Mambo ha dato, era un po' emerso questo problema che c'è la sindrome di chi arriva primo che ingombra un po' il campo. Sì, ma poi c'è il problema cioè il museo come istituzione privata ha una responsabilità sociale o no? Cacchio, parlano di responsabilità sociale le imprese private, e quindi la tua responsabilità sociale ce l'hai, perché se non fai quello sei assolutamente inutile, anche perché metà delle entrate sono entrate pubbliche, quindi sono i cittadini, voglio dire, e devi restituire. Ecco, credo che questo sia proprio un altro aspetto, di capire il senso del pubblico e come dicevi prima, e fare in modo che il pubblico enfatizzi e dia la possibilità a chi ha qualche cosa da dire, chi vuole portare avanti nuovi linguaggi, di farlo e non altro. Poi al gallerista non domando altro perché ha altre logiche, ma il senso del pubblico è questo. Se no, non so, tu che guarda, intanto come dire, concordo pienamente sulla necessità, quando si parla allora di linguaggi, della mescolanza, del rapporto tra i linguaggi. Cioè è chiaro che non credo sia solo un fatto così di cioè alla fine non ci sono solo ci sono anche le scuole che ancora lavorano, le accademie, la musica non entra, in conservatori non credo entri l'arte. Hai ragione. E quindi, come dire, veniamo da una cultura di separazione che bisognerebbe cercare, e sono anni che gli artisti già spingono, mescolano, però fanno fatica, e fanno fatica perché non dico il pubblico, ma anche i media, per esempio, per molti anni hanno fatto una grande fatica a seguire le cose che venivano create con mescolanza, perché di solito i giornali, per non esempio, sai chi darle, l'esperto non sai chi darle, di teatro, sì, l'esperto di arte, l'esperto di video, e per cui di queste cose non se ne parlava. Ora naturalmente non è più così, però credo che ancora ci sia tantissimo da fare. Benissimo se ci sono delle residenze di incontro, forse ancora un po' poco, perché poche residenze, forse ci vogliono alcune centinaia di anni prima che si arrivi veramente. Mentre qui dobbiamo stare attenti ad un'altra cosa, ecco perché, scusami, devo dire, io parlo di soldi non perché creda che i soldi risolvano le cose, anzi i soldi di solito danneggiano, complicano, però oggi le cose non possono più avvenire come avvenivano all'inizio del Novecento con le avanguardie, 10 futuristi, 8 cubisti fanno la rivoluzione, non è più così. Oggi o arriva Netflix, cioè, come dire, ti costruisce un sistema, ma te lo fa con una quantità di impegno anche finanziario da poterlo comunicare contemporaneamente a tutto il mondo, e diventa quella cosa lì, oppure la cosa oggi non esiste. In più, se ci mettiamo le relazioni con i social, nei social network, cioè ora o le cose avvengono in una certa dimensione o non ci sono. Ecco perché dico che allora ci vuole un investimento. Quando parliamo appunto di dare agli artisti la possibilità di lavorare, non vuol dire solo dare degli, vuol dire dare, quello che dici tu, la possibilità di incontro, ma deve avvenire con un investimento importante. Perché altrimenti, torno a dire, la prossima pandemia scopriremo che è una pandemia culturale, e non è che i linguaggi del futuro non saranno creati, i linguaggi del futuro sono creati esattamente in questo momento, solo che chi lo sta facendo? Zuckerberg, non più Bill Gates, ma Microsoft, Google, loro stanno costruendo il metaverso, che poi sarà, di qui a qualche anno scopriremo il luogo dove molti di noi, tutti noi, dove vivremo, se... vivremo gran parte della nostra vita, con un avranno utilizzato tutta la cultura dell'umanità, perché non è che lo creano dal nulla, lo creano con tutta una serie di riferimenti culturali, eccetera, gratuitamente prendono tutta questa, diciamo, si appropriano di questa quantità della dimensione culturale dell'umanità, e ci faranno trovare in un mondo che però hanno costruito loro, per carità, mica l'hanno fatto contro di noi, sia chiaro, anzi spesso hanno anche cercato di capire qual è, diciamo, l'aspettativa di larghi strati di persone, eccetera, ma sicuramente noi non avremo partecipato alla costruzione estetica, alla costruzione linguistica di questo mondo in cui ci troveremo. Che invece it's sarà abbastanza universale. Io vi devo interrompere perché è finito il tempo. È finito il tempo, ci siamo dilungati, ed è la realtà ci richiama alla fine della trasmissione. Però Pasquini, a questo punto, vedi, dovevi rispondere all'annuncio di Amazon lì, questo, la morale è che è arrivato il messaggio giusto. Ho risposto ok. Ok. Adesso aspetto che adesso vediamo se arrivano i finanziamenti. Adesso aspetti che ti domandano il numero della tua card. Esatto. Io non posso far altro che ringraziarvi tantissimo, francamente starei qui un'altra ora a continuare a parlare di queste cose, ma ahimè la nostra trasmissione finisce qui, e io ringrazio Fabio Cavallucci e Roberto Grandi che sono venuti qui e naturalmente noi continueremo la nostra conversazione fuori dallo studio, ma con Coxo Spaziale ci rivediamo come al solito lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, fingendo che non ci siano le feste natalizie in mezzo, come se nulla fosse. Continuasse, esatto, stacanovisticamente. Infatti io ero Stefano W. Pasquini, tu eri Chiara Pergola, e noi ci salutiamo. Coxo Spaziale, Coxo Reale. Deutschland und Montenegro. Wir schicken euch ganz viel Liebe und wünschen euch einen wundervollen Tag. Će manje sporije čekat, ne valja se umutno ofleka, ni oko te struje plekat, ne postigne se efekat. Svijet ovaj je neperfektan, nije sam i ja prepametan, oštre zime vrela ljeta, olizdi mi s nama jedan. Biće manje, imam osjećaj da biće manje. Biće manje, imam osjećaj da biće manje. Moj taj ton, neka ti pričano o taj ton. Doneću pivo pa na balkon, sve dok ne ostane go karton. Veranda ridim je go bonbon, ajde de pali taj mikrofon. Arbiran je flow ko beton, freestyle u kontra Babilon. Naučim krvi glasno trese se membrana, iz kužine zamirisala je hrana. Instrumental drvi priča toči sama, mikrofon se neće gasit 10 dana. Nagari basaj se zapataj, glupo je kasno do zvanja kraj. Neko lega, neko već spa, mrklo je odavno, skoro je dva. Komšu mi veli ne zajebaj, po cijelo večer davaj davaj. Cijelje se rapči na reggae crime, gasi da ne bi miliciju zva. Velio metate, ali mi red mir u doba kad svako normalan spi. Basovi teru dželju kru...